exemple, les gens m'appellent Myriam Makeba. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte e ciao a tutti. Campanello d'allarme. Il New York Times ha pubblicato qualche giorno fa una notizia piuttosto allarmante. È stato organizzato un summit segreto in USA, alla Harvard Medical School di Boston, per valutare la creazione di un genoma umano sintetico. La riunione a porte chiuse fra gli scienziati coinvolti si è occupata della possibilità di usare componenti chimici per produrre tutto il DNA contenuto nei cromosomi umani. Il genoma sintetico potrebbe essere usato per creare esseri umani senza genitori. L'incontro aveva caratteristiche estremamente riservate e i 150 partecipanti avevano l'obbligo di non parlarne e di non divulgare la notizia. Abbiamo ridetto e detto tante volte che la scienza non è neutra, ma che è funzionale alle richieste e agli scopi che si vogliono ottenere, e che chi ha il potere economico e politico chiaramente ne fa l'uso che gli è più confacente. Ed è altrettanto chiaro che è impossibile impedire ricerca e sperimentazione, perché oltretutto non sono il male in sé, ma dipende da chi e come vengono usate. Ora, scienza e tecnologia sono capaci di indurre la produzione di ovuli, di congelarli, di conservare il seme in appositi luoghi, di catalogare tutto per caratteristiche, di metterli insieme in provetta, di far nascere qualcuno con malattie o senza malattie, con tre gambe o con una gamba sola, a seconda dei desideri. Possono clonare un essere vivente da un pezzetto di DNA. Noi non siamo neanche in grado di distinguerlo da uno vero. Sono passati 20 anni dalla nascita di Dolly, la prima pecora clonata, e negli USA è permessa la macellazione, il commercio e la vendita addirittura di animali clonati. Tutto questo è sempre avvenuto mascherato da nobili intenti, cioè per poter permettere di avere figli anche a chi non può averli, per poter identificare e curare precocemente le malattie, per poter far nascere individui sani. Il capitalismo e il neoliberismo in particolare si muovono così. Sfrutta le esigenze, i desideri, le paure e le speranze di noi tutte e tutti per metterle non solo a profitto, ma per poter portare avanti il progetto di dominio con il nostro consenso. Al di là delle belle parole che ci diranno, è chiaro che l'intento e la speranza mai venuta meno di questo sistema è di produrre l'essere umano addomesticato, docile, disponibile, mai conflittuale ed asservito, da mettere al lavoro, da mandare in guerra o semplicemente da tenere da parte per ogni evenienza. Finora avevano individuato le zone del cervello dove si annida, tra virgolette, secondo loro, il dissenso, l'insoddisfazione di vita, il ribellismo, l'alterità a questa società, chiaramente con l'intento di controllare le reazioni umane a piacimento, ma dicendoci che così si può curare facilmente stress, depressione e spoliticizzando ogni tentativo di uscire da questa società. Ora, la possibilità di creare l'essere umano in maniera completamente artificiale darebbe loro la possibilità di fare schiavi su misura. Una volta fatti, chiaramente, le chiese faranno convegni per discutere se hanno o meno l'anima, e la socialdemocrazia li manderà dagli esperti della mente e del comportamento per far loro superare il trauma di essere nati dal niente, senza passato, senza riferimenti, senza storia né personale né collettiva. È uno scenario fantascientifico? Beh, il summit a Boston l'hanno fatto e in gran segreto. Non è un caso che gli USA siano trainanti in tutte queste sperimentazioni. Sono loro lo stato del capitale, sono loro a proporsi come riferimento mondiale e loro il progetto di dominio del mondo. L'egemonia culturale che esprimono fa sì che molte delle migliori intelligenze, specialmente in campo scientifico e tecnologico, siano attirate dalla possibilità di lavorare negli Stati Uniti. Si assiste ad una migrazione spontanea e compiaciuta di giovani ricercatori e ricercatrici, specialisti vari, tecnici, scienziati, verso gli USA, nella speranza di poter dimostrare le proprie capacità ed essere riconosciuti e premiati. Così lo stato del capitale si assicura idee fresche e variegate. Disponibilità massima, li sfrutta per 5-10 anni finché hanno qualcosa di nuovo da dare e poi li getta, sostituendoli con altri arrivi. Mi sono sempre chiesta cosa spinga uno scienziato, una scienziata, un ricercatore, una ricercatrice, un tecnico a portare avanti studi che sono sperimentazioni estremamente pericolose per il destino dell'umanità. E mi vengono in mente le parole di Thomas Eliot: Metà del danno compiuto in questo mondo è dovuto a gente che vuole sentirsi importante. Essa non ha intenzione di recare danno, ma il danno non le interessa. O non lo vede o lo giustifica, perché è immersa nell'incessante lotta per l'autostima. In ogni caso, quello che sta avvenendo dimostra una volta di più la natura nazista del capitalismo neoliberista e la necessità di uscire da questa società prima che sia troppo tardi.